La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Buon sabato a tutti, questa è La Rosa Purpurea, il nostro programma di cinema settimanale qui su Radio 24. Franco D'Assisi vi saluta e vi invita come sempre al cinema. Noi siamo qui apposta, siamo qui per raccontarvi le novità sul grande schermo di questo fine settimana, un fine settimana abbastanza ricco sotto il profilo quantitativo, con un blockbuster assoluto come Cattivissimo Me 2, di cui parleremo fra poco, con una commedia italiana abbastanza attesa, di cui tireremo le somme fra poco con Sara Sagratti, parliamo di Aspirante Vedovo, con un po' di cinema d'autore, insomma abbastanza varietà in questa settimana. E allora cominciamo subito a entrare nel vivo di quello che è il film forse dal quale molti degli ascoltatori e degli spettatori italiani si sentivano interessati, attratti in questa settimana, vuoi anche per la coppia Fabio De Luigi Luciana Littizzetto, che dovrebbe garantire risate sul grande schermo, e vuoi anche perché alle spalle c'è un padre nobile in questo Aspirante Vedovo, ovvero il film Il Vedovo di Dino Risi con Alberto Sordi e Franca Valeri, insomma, come dire, due totem con cui è anche difficile rapportarsi. Adesso chiederemo alla nostra Sara Sagratti se i nostri ce l'hanno fatta in questo caso. Cominciamo però prima a entrare nel clima del film con questa clip. Per una moglie spietata. Gli affari vanno bene? Ma sai, questa crisi, c'è da fare soldi a palate. E un marito in affanno? Noi concediamo finanziamenti sulla base di certi requisiti. Appunto, il coraggio, l'ottimismo. E la firma di sua moglie. È arrivato il momento di trovare una soluzione. Finiamola qui, divorziamoci. La soluzione ce l'hai davanti agli occhi e non la vuoi vedere. Divorziare! No, no, fino a che morte non vi separi, morire deve. Perché a morire? Devo essere proprio io? E allora, la storia forse la ricorderete, abbastanza semplice. Cialtrone sposa donna piuttosto ricca, cerca con questo di farsi finanziare i suoi progetti fallimentari. Le cose non andranno esattamente così, fra i due c'è un odio che è assolutamente più che palpabile. Dicevamo, un soggetto che è quello alle spalle, che è quello di Aspirante del Vedovo di Dino Risi, cui questo film almeno ha la bontà di dirsi liberamente ispirato, insomma non è un vero e proprio remake. La nostra vera rosa purpurea di questo programma, Sara Sagratti, in collegamento con noi. Ciao Sara. Ciao Franco, sto sbattendo le ciglia amoreggiante per le tue parole. Oh, vediamo i cuoricini che spiccano dall'etere. Missione compiuta o missione fallita? Insomma, dicevo prima, accostarsi a questi totem è sempre tanta roba, eh? Guarda, loro stessi a tutte le interviste hanno detto di non volersi accostare. È un film liberamente ispirato a, scritto anche nei titoli di coda, e questo per la cronaca. Per quanto riguarda il mio giudizio, visto che uno dei miei motti è se hai qualcosa di bello dillo, se hai qualcosa di brutto tacilo, ti dirò le cose che mi sono piaciute molto, che sono per esempio la grafica elegantissima dei titoli di coda, il guardaroba meraviglioso, tra l'altro firmato Armani, di Luciana Littizzetto, che lei porta con una nonchalance veramente invidiabile, con la manina alzata proprio da signora della borghesia bene. E questo è molto credibile e molto bello. Sul resto taccio. No, non tacciamo, per esempio la comicità, dicevamo, no, perché è chiaro che sono due personaggi chiaramente inizialmente di estrazione televisiva, poi che hanno avuto il loro percorso al cinema, tra l'altro la regia di Massimo Venier, che è uno che qualche commedia l'ha azzeccata anche, però mi sembra che ci, adesso sentiamo questa clip, che ci sia una comicità come dire vista, scontata, che cerca un pochino la battuta facile piuttosto che qualcosa di raffinato come ci si potrebbe aspettare anche dall'impianto. Sentiamo questa clip. Eh sì, perché io lo vedo che si impegna, si sforza, poverino, fa fatica, ma niente. Poi fa sempre questa cacca strana, viscida. Alberto, annusa un po' Ugo. Vedi se da dietro manda odore di tartufo? No, tartufo proprio. E allora, Sara, quando lo spettatore arriva un istante prima alla battuta che non la battuta allo spettatore, c'è qualcosa che non funziona. C'è qualcosa che non funziona, soprattutto in questo caso, come dicevi tu, Massimo Venier, qualche commedia l'ha azzeccata con la Jalapas e con altri. Il problema è proprio un problema di poca fiducia nel pubblico. Per cui è vero, Venerci ha dichiarato anche ai nostri microfoni un film popolare con attori popolari, non volevano andare al di là di questo e ci mancherebbe altro, e da questo punto di vista non si può dire che la missione non sia riuscita, però è anche vero che tutta la parte nera della commedia originale, su cui non ci si voleva confrontare, ma che comunque alla fine da spettatore ti ricordi, è brutta, è scritta male, al posto che empatizzare con personaggi cialtroni perché in qualche modo vuoi che ce la facciano, alla fine ti viene da dire solo poverini, è questo che distrugge proprio l'humus del film, insomma, ecco. E allora a questo punto noi ascoltiamola però, Luciana Littizzetto, sentita proprio dalla nostra Sara Sagrati. Luciana Littizzetto, cominciamo dalla domanda più scomoda, Franca Valeri. Ma io non è scomoda, io sono abbastanza tranquilla, perché Franca è una persona grandissima e che quando io le ho detto, sai, facciamo il vedovo, io faccio la tua parte, mi ha detto, sono contenta, sono molto contenta. Io più che altro, più che chiederle il permesso, ho chiesto scusa sostanzialmente, ma io in quello sono tranquilla, perché nessuno vuole misurarsi con lei, perché lei è la prima in assoluto, quindi... Il tuo personaggio è una donna cinica, rivista, cattiva. È divertente fare i cattivi? Sì, non mi era mai successo di fare una così cattiva. E lei è proprio senza scrupoli, è una donna aggressiva, una donna che ha voglia, sete di potere, prepotente, protervia, ha tutte delle caratteristiche negative. In una solitudine assoluta, perché quelle donne che investono tutto nel loro mestiere e godono nel uccidere gli altri a livello proprio economico, industriale, con gli affari, eccetera, sono delle donne sole, non è nient'altro. Come gli uomini sono soli, quindi che fanno così. La commedia in Italia come sta andando? Insomma, c'è richiesta di commedie, si fanno tante commedie, tu sei tra l'altro in prossimi tantissimi progetti, c'è ancora bisogno di commedia? Com'è la commedia in Italia? Che sta? C'è bisogno di commedia perché la gente è triste, quindi ha voglia di vedere la realtà dal punto di vista più lieto, più lieve. E questa è una commedia strana, perché noi non siamo più abituati al politicamente scorretto, vogliamo sempre fare tutte cose che ci spieghino la vita, ce ne insegnino con sotto un messaggio, e questo è un modo di far ridere, un modo tremendo, che però è bellissimo perché era quello della commedia all'italiana, è più adesso appannaggio degli stranieri che non degli italiani. Io invece penso che questo può essere un inizio per riproporre questi meccanismi comici che sono altrettanto potenti ed efficaci. Luciana Littizzetto al microfono di Sara Sagrati, che salutiamo e ritroviamo la prossima settimana. Ciao Sara. Ciao Franco, un saluto a tutti. E allora, prima di lasciarvi alle fondamentali notizie sul traffico, io vi do la prima traccia del nostro film misterioso di oggi. Panzone, è bello essere libero, siamo vicini, non dire a nessuno, mi faccio vivo, ciao. Qui dice ciao, come hai fatto a non capire che era di ciao? La Rosa Purpurea @radio24.it è sempre il nostro indirizzo di posta elettronica, soprattutto per giocare, ma non solo. Diteci di che film si tratta, scriveteci il vostro indirizzo di posta dove vorreste ricevere eventualmente la copia Blu-ray di questo film, perché i primi due ascoltatori che indovineranno la riceveranno davvero a casa, e più tardi avremo un'altra possibilità. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qua, La Rosa Purpurea, ancora film, ancora cinema sul grande schermo. Abbiamo detto in apertura di trasmissione, è la settimana di Cattivissimo Me 2, autentico acchiappa incassi, nel primo weekend americano, pensate, 82 milioni di dollari, l'incasso totale in America 362 milioni di dollari, sono cifre assolute, se pensate che è un film che a livello planetario arriverà verso il miliardo probabilmente di incasso globale. Comincia la sua vita anche in Italia, l'ennesima storia del super cattivo, anzi dell'ex super cattivo Gru, e di questi minions, questi omini gialli che sembrano le sorprese degli ovetti Kinder con gli occhi e le gambine. Andiamo a sentire subito questa clip per entrare un po' nel clima, nel momento in cui una delle protagoniste, Lucy, incontra appunto Gru. Quello che ha visto prima è una cosetta nuova che ho elaborato. È una combinazione di Jiu-Jitsu, Krav Maga, arte militare azteca e Crumping. Ok, questo è assurdo. Perché è qui? Per incarico di Silas? Sono il suo partner! Evviva! Che? No, niente! Evviva! Boris Sollazzo, ben ritrovato alla Rosa Purpurea. Buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori. Allora Boris, Cattivissimo Me 2, c'è dentro un po' di tutto, c'è un clima da spy story, ma c'è anche la storia d'amore, ci sono addirittura gli zombie, c'è la bambina che vuole una mamma, fra poco anche sentiremo, insomma ci sono gli ingredienti che fanno diventare vario il menù, ma c'è soprattutto un ritmo che permette a questo film di arrivare dal primo all'ultimo minuto allo spettatore. Sì, no, Cattivissimo Me è sicuramente uno dei migliori film d'animazione senza essere migliore del primo, uno dei migliori film d'animazione degli ultimi tempi senza essere migliore del primo, perché nel momento in cui si mette a giocare con i suoi stereotipi, di sicuro diverte, stereotipi dell'animazione ma stereotipi anche di Cattivissimo Me. Il nostro protagonista deve diventare un padre di famiglia, deve diventare un uomo borghese, se vogliamo, se si può chiamare uomo. Però il punto è sempre il solito, che ormai il modello del cattivo che diventa buono è abbastanza consumato, ma soprattutto quello del particolare per l'universale. Cioè noi vediamo Cattivissimo Me per i Minions e non per il suo protagonista, come ormai facciamo spesso nelle animazioni. Ecco, questo è il piccolo difetto di Cattivissimo Me. Detto questo, come ho detto, è una delle cose da andare a vedere, perché ti diverti come un matto grazie al ritmo che dicevi. Buonanotte, Margot. Io so perché tu sei un maschio. Che? Lo sai? Per la pelata. Ah, sì. È liscia liscia. A volte la guardo e penso che possa uscire un pulcino da lì. Piu, piu, piu. Buonanotte, Agnes. Non crescere mai. Parliamo di Gloria con Paulina Garcia, Orso d'Argento alla 63esima edizione del Festival di Berlino, ritratto di donna cinquantenne, divorziata, figli adulti che cerca di fatto una seconda giovinezza. Un gran film questo, Boris. D'accordissimo, per me è il film della settimana e potrebbe essere anche il film del mese e della stagione. Sebastian Lelio è uno dei maggiori esponenti del cinema cileno e qui possiamo capire perché. Ha una capacità di riprendere anche ciò che è meno bello e più difficile da raccontare con una sensibilità, una dolcezza e una delicatezza che sono davvero davvero uniche. Bravissima la protagonista, straordinaria, meriterebbe l'Oscar in un cinema meno americano centrico. Di sicuro la cosa più bella è vedere un cinema borghese che si guarda dentro, un cinema che non ha paura di far vedere una donna avanti con gli anni, che però vuole tutto quello che una donna deve volere e desiderare: amore, sesso, divertimento. E se vi state chiedendo se quella Gloria è proprio quella di Umberto Tozzi, ve lo confermo e ve la sentirete integralmente in versione spagnola nel finale. E tu come ti chiami? Gloria. Bello. Fai un tiro? No, non fumi. Ho tanta paura di perdere il controllo. E ancora Emperor nei cinema italiani, un film di Peter Weber con Matthew Fox e soprattutto Tommy Lee Jones, la storia dell'uomo che in 10 giorni dovette decidere le sorti, niente meno che dell'imperatore Hirohito. Boris. In questo caso, secondo me, invece, l'unico interesse di Emperor è che Tommy Lee Jones fa il generale MacArthur, che basta e avanza per potersi vedere un film in generale. E è un film molto convenzionale che parla del primo dopoguerra, proprio primissimo, come dicevi tu, quei 10 giorni che cambiarono in fondo il mondo, ma di sicuro i destini di una nazione, di un continente, e lo fa con una struttura parallela, cioè un'investigazione storica, politica e una privata, una donna da trovare, una donna di cui ti sei innamorato. Che cosa succede? Che diventa un romanzo cinematografico storico molto convenzionale da una parte e un melodramma d'amore molto convenzionale dall'altra. Se vi piace l'ambientazione, se vi piace quel tratto di storia, se vi piace quel cinema che sembra girato 40 anni fa, allora potete vederlo, altrimenti davvero è un po' troppo vecchio per tutti. Generale Fellers, è richiesta la sua presenza. Mi hanno detto che ci saranno 2000 truppe imperiali a guardia delle strade che dovremo percorrere. Possono farci fuori quando vogliono, generale. Dite a Washington che mi sono consultato con i miei esperti e non c'è nulla di cui preoccuparsi. Mostriamogli come camminano a testa alta gli americani. Non ho mai incontrato un imperatore prima d'ora. E tantomeno un dio. Che cosa diavolo si deve dire a un dio? Le proposte del weekend, Emperor con Tommy Lee Jones. Boris Sollazzo, ci sentiamo fra 7 giorni. Arrivederci a tutti e buon cinema. E allora, queste le quattro proposte, i quattro film, diciamo, che abbiamo voluto selezionare per questa settimana. Vi ricordo che in sala trovate anche, magari anche a macchia di leopardo, oltre ai confini del male, Black Star, Il ragioniere della mafia e L'amore in valigia. 8 titoli in tutto per questo weekend. Seconda e conclusiva traccia del film misterioso di oggi. Abbiamo parlato con Tracy oggi. Ha detto che hanno trovato un centro psicoterapeutico per Alan. Ma è bellissimo, l'ho visto su internet. Ha un'ottima reputazione. Non risparmiano e lo mandano in un centro dimagrante. Sì! Allora, di che film si tratta? Titolo, vostro nome, cognome e indirizzo. Come sempre provate a vincere una copia in Blu-ray di questo film per i primi due ascoltatori di questa puntata che ci scriveranno il titolo esatto con il loro indirizzo. Fra 7 giorni vi spiegheremo, vi sveleremo di che film si tratta, vi racconteremo chi dei nostri ascoltatori lo ha vinto, come facciamo adesso col quiz di 7 giorni fa. Torniamo a casa nostra. Sono Gagarin di Fiume Basso. Facci passare. È un consiglio da amico. E io sono Avvoltoio della Riva. E Avvoltoio non accetta consigli da nessuno. Si trattava di Educazione siberiana di Gabriele Salvatores. Devo dire, un film che avrei pensato così nel mio un po' più difficile da indovinare. Invece c'è stata una valanga di mail di ascoltatori al nostro indirizzo di posta elettronica, la rosa purpurea @radio24.it. Ebbene, i primi due a indovinare sono stati Luca Canton di Mestrino, provincia di Padova, e Giovanni Ferrari di Carpeneto Piacentino, appunto in provincia di Piacenza. Saranno loro a ricevere l'edizione in Blu-ray di Educazione siberiana, del più recente film di Gabriele Salvatores, della quale parliamo adesso con gli amici di Film TV. Apriamo la pagina del cinema da vedere in casa con Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Allora, com'è questa edizione Blu-ray di Educazione siberiana? Ma il Blu-ray è un Blu-ray d'alta resa con making of, scene tagliate e commenti di regista e scrittore di questo film, che è una sorta di spin-off di No Artri, di La promessa dell'assassino, un'educazione criminale nella Siberia degli anni 80 con tutti i rituali mafiosi assolutamente ben descritti, tratta da un caso letterario di Nikolaj Lilin che giocava abilmente tra romanzo, memoriale e saggio. Ecco, per quanto riguarda invece le novità in un video, abbiamo parlato prima con Boris Sollazzo, in sala c'è Gloria, cinema cileno ad altissimo livello, come lo è stato, e questo sottolinea anche una stagione felice di quella cinematografia, come lo è stato all'inizio della stagione No, I giorni dell'arcobaleno, che adesso arriva invece in un video. Sentiamo la clip e ne parliamo. Perché penso che è la ora di ganare la libertà. Hasta cuando ya me abusos, es el tiempo de cambiar. Questo è tutto quello che avete? Beh, la campagna è questa. Ma a me sembra una pubblicità della Coca-Cola. Anzi, è molto peggio. No, ragione. No, scusate, non scherziamo. Io rispetto la vostra opinione, ma stiamo facendo qualcosa di molto più serio. Utilizzando un linguaggio pubblicitario che è universale, familiare, attraente, ottimista, ma che ha alle spalle un concetto politico preciso. Terzo atto del cinema politico di La Rain, che di questo nuovo cinema cileno è veramente il rappresentante più significativo, qui racconta delle campagne referendarie per dire no al dittatore Pinochet, interrogandosi però su un altro potere dittatoriale, potente, anche se più subdolo, che è quello della televisione. Il DVD Cecchi Gori è sobrissimo, privo di extra se non il trailer, le immagini sono degradate in 4/3 come vuole l'autore. E allora, questo è No, I giorni dell'arcobaleno. Andiamo invece a parlare di una segnalazione in televisione, perché arriva un film che è sempre il caso di vedere, giovedì 17 su Rai Movie a mezzanotte 15, Videodrome, uno dei capolavori assoluti di David Cronenberg. Sì, un altro film sulla televisione, tra l'altro, che qui non cambia solo la visione del mondo, ma fa mutare e fa ammalare addirittura i corpi, perché Cronenberg è sempre stato un po' la versione horror di Marshall McLuhan. È un horror che ha previsto molto e poi delle degenerazioni dell'immaginario a venire, un film profetico, disturbante, assolutamente incredibile. Allora, ricordiamo l'appuntamento giovedì 17 su Rai Movie a mezzanotte 15. Grazie Giulio, buon lavoro agli amici di Film TV. Ciao Franco, alla prossima settimana. Bene, siamo arrivati allora in fondo alla nostra trasmissione. Il tempo di segnalarvi una bellissima iniziativa del Sole 24 Ore che proprio da oggi, e chiaramente poi i DVD li troverete anche nei giorni successivi, comincia a pubblicare una Bergman Collection di film ovviamente di Bergman, restaurati dalla Cineteca di Bologna in copie davvero splendide, soprattutto con tutte le spiegazioni, le versioni che hanno avuto anche l'intervento della censura italiana. Quindi li vedremo come erano censurati e li vedremo invece come erano quando erano nati da Bergman, perché Bergman fu un autore che ebbe anche molto a che vedere, purtroppo per lui e per gli spettatori, con la censura italiana. 7 capolavori riproposti per la prima volta in edizione integrale con un bellissimo apparato testuale. Si va dal Settimo Sigillo al Posto delle Fragole, un film immortali come La Fontana della Vergine o come Sorrisi di una notte d'estate. Insomma, in edicola col Sole 24 Ore il grande Bergman a partire da oggi. A me non resta che salutare Giorgio De Luca in redazione, Peter Bescapè in regia, darvi appuntamento alla prossima settimana qui alla Rosa Purpurea, ricordarvi la nostra pagina Facebook, La Rosa Purpurea Radio 24. Se cliccate vi piace, starete con noi tutta la settimana. Alla prossima. La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi.